Capitolo 5. In montagna. 5 novembre 2018. Ostello di Doña Vicenta. Sembra che, alle volte, vivere nel paradiso bruci la pelle delle spalle e anche la pianta dei piedi. Sembra che arrivino momenti nei quali la variegata comunità di sognatori e nomadi che qui vive sente il bisogno quasi comune di mettere un paio di scarpe, dei calzini e magari anche una felpa per andare a sentire l'aria fredda che ci bacia il collo. Ieri ho preso il piccolo autobus, tutto aperto e sgangherato, che era ancora mattina presto. Due battute con gli amici, quelli che andavano a fare la spesa nella piccola città a mezz'ora da qui, che mi hanno informato anche che ha appena aperto un grande supermercato e che ha dei prezzi imbattibili. Sì. La stazione degli autobus nella cittadina ha l'aria decadente di un posto di passaggio. Scelgo il sedile vicino al finestrino e aspetto, ascoltando le note di una compilation di cuori infranti, e poi partiamo. Ma il conducente sembra che abbia una insolita fretta e prende tutte le curve quasi alla cieca in una salita lunga e tortuosa per le ore successive. E quando al fin comprendo che l'amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Scendo la mia fermata e aspetto un passaggio. La sensazione della tela al contatto con la pelle è strana e piacevole allo stesso tempo. Respiro il fresco del vento del mezzogiorno. Mi ero quasi rassegnata a camminare per i chilometri che mi dividevano per arrivare al villaggio. Lungo quella strada incorniciata da grandi abeti, da dove il mare si vede lontano in un orizzonte sconosciuto alla gente di montagna. Ma si affianca a me un maggiolino blu, scuro e sgangherato, con tutti i segni di una vita intensa passata su quei terreni sconnessi. Un passaggio? Arrivo all'ostello che Doña Vicenta sta cucinando dei fagioli neri in un calderone sulla grande stufa accesa in cucina. Mi siedo accanto al fuoco, scaldandomi le mani ed il corpo. Lei mi versa un tè fatto di erbe raccolte nel bosco, che mi scalda anche il cuore. È molto linda la naturaleza. Acariciare un árbol è molto bello, è molto bonito. 7 novembre 2018, ostello di Doña Vicenta. Il profumo dei fiori del floripondio si comincia a sentire quando appaiono i primi raggi del sole. Quando l'amplificatore che si trova nella piazza del villaggio, in cima al tetto di una casa, comincia ad elencare chi compirà gli anni oggi, per poi trasmettere alcune differenti versioni di tanti auguri a te, per una mezz'oretta circa. E cominciare poi con la pubblicità. Doña Rosa ha fatto i tamales, si può andare a casa sua a ritirarli dopo le 10 del mattino, portate il vostro contenitore. O l'elenco della verdura e della frutta fresca, che è finalmente arrivata al mini market. La disconnessione dal paradiso è piacevole. Conosco persone nuove, si chiacchiera, io ascolto, qualcuno alle volte piange, poi andiamo a mangiare tutti assieme. Non mi ricordavo questo freddo, quello dell'inverno tra queste montagne incantate. Dicono che in questi giorni il vento è davvero forte, fortissimo, come non lo si sentiva da molti, moltissimi anni. Che non c'è luce da ieri mattina e che la birra si sta scaldando nei frigoriferi e che si sentono solo le voci dei bambini che giocano laggiù, dove vedo la chiesa e la piazza principale. Piccolo sole che illumina, calzini di lana, calze termiche e caffè fumante. Adesso posso anche solo restare ad osservare e imparare. Tacere e raccontare i fatti imparziali e bellissimi della vita, nella quale ogni cosa è accaduta per una ragione. Secondo il fatto che questo è davvero il migliore dei mondi possibili. E forse sì, il giovane Candido, nelle parole di Voltaire, aveva ragione, e Pangloss di conseguenza. Stiamo davvero vivendo nel migliore dei mondi possibili. Che mi rende cosciente di quanto sono grata alla vita che, con schiaffi e abbracci, mi insegna a perdere la paura e a non sentire quel sapore amaro del dolore, ma piuttosto a guardarlo il dolore, come se fosse l'educazione necessaria per poter essere adesso sorella, madre e amica di me stessa. Respiro, l'aria fredda e si spalanca la mia bocca in un urlo silenzioso che mi strappa lacrime acide che scendono sulle guance congelate. E mi sorprendono, come una bambina di fronte ai suoi regali di compleanno in quella festa che non è mai avvenuta. Ieri pomeriggio stavo chiacchierando con Doña Vicenta. Lei stava pulendo gli ultimi funghi della stagione, prima della neve e del grande freddo. Mi diceva che ci dobbiamo sentire privilegiati a conoscere le piante selvatiche, come anche a saper coltivare la terra e a produrre il cibo che consumiamo. A saper cacciare gli animali nei boschi, a saper conservare il cibo senza la comodità di un frigorifero. E che dobbiamo ritornare ad essere dei cacciatori-raccoglitori, perché questo ci renderà le persone più fortunate. E poi a Vicenta piace quando la sua casa si riempie di voci e di risate. Lei ha sempre un fare mascolino. Porta i pantaloni, invece che la gonna, quella che usano qui tutte le signore della sua età. Però tienes un manzanito, no? Ah, sì, de che hai manzanito. E che racconta un tempo lontano. Di quando Vicente aveva 13 anni e i suoi genitori l'avevano promessa in sposa ad un signore molto più anziano di lei. Ma con la forza delle donne che nascono tra le montagne, Vicente ha deciso di scappare fino alla capitale. E così, in quei tempi nei quali c'era un solo telefono in paese, ha fatto facilmente perdere le sue tracce. È ritornata in questa valle solo molti anni dopo, con due figli e senza quell'uomo che aveva incontrato in città con il quale si era sposata, un marito che si era perso tra le cantine e i bordelli. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. 15 novembre 2018, Giardino Incantato. Camminare a testa alta dove tutti guardano e poi nasconderci. Chi siamo quando nessuno ci giudica dall'esterno? Passo la maggior parte del mio tempo da sola, sporadicamente con gli amici e spesso con persone a caso. Sono il respiro tranquillo di Morgana, che ha perso lungo il suo cammino molte delle ombre di cui aveva paura. Rispetto la signora, la santa muerte, quella che sempre rimane attenta alla mia sinistra. Quando poi deciderà di toccarmi la spalla e sarà giunto il mio momento, spero che a quel punto della mia vita io abbia già imparato la danza del guerriero. Così lei dovrà restare a guardare fino al termine, prima di portarmi via. Sto leggendo un libro che ho trovato nella biblioteca pubblica del Paradiso, Viaggio Ixtlán, nel quale un giovane Carlos Castaneda viene guidato da Don Juan a conoscere il cammino del guerriero per ballare la sua danza. Leggo poche pagine alla volta. Ogni parola mi risulta forte e potente, un grido disperato che mi vibra direttamente nei timpani. Il copal? Il copal è quello che si sauma? E con il che hacen limpias, no? Sì, è come il che hacen así. Vibrare. Sentire il corpo che sussulta ad ogni soffio d'aria e lo stomaco in subbuglio. Era da molto che non mi accadeva. Ritorno dalla montagna con un cesto di nuove amicizie, belle storie e bei sorrisi. E quell'abbraccio che sognavo e desideravo è arrivato. È arrivato per caso e con una dolcezza infinita. Nella giostra degli incontri nell'ostello di Doña Vicenta, un pomeriggio è apparso lui. Il suo volto mi è sembrato familiare fin dal primo sguardo. Lui ha dichiarato invece di non avermi mai visto prima. Chimica sconosciuta. Vibra la mia pelle quando mi sfiora. Passiamo alcuni giorni assieme, camminando tra i boschi fino alla radura magica. Ci distendiamo sull'erba umida. Il torrente canta accanto a noi. Guardiamo in silenzio le nuvole passare tra i rami alti degli alberi che scricchiolano. Mi piace stare nel suo abbraccio. È come galleggiare nel mare calmo. È come una vacanza da me stessa, dalla piccola coscienza di Morgana, messa in un angolo e che grida disperata tutte le sue paure. Ma io non l'ascolto. È che continuo a pensare che ho solo voglia di stare di nuovo abbracciata a lui. Mi piace questa vibrazione bassa e profonda che fa tremare le budella al solo ricordo di questo incontro, inaspettato e bellissimo. Ci rivedremo presto, ci siamo detti. Eh sì, sarebbe tanto bello poter lasciare che accada. È che non me lo aspettavo tanto forte questo sentimento. Come quando arriva l'onda, quella più alta, che sei distratto e non fai in tempo a fare nulla e ti fa rotolare metri e metri con la faccia sulla sabbia. Chiudo gli occhi e lui sparisce. Una stella cadente che per un attimo ha illuminato la mia notte di felicità.